ad alta voce. Monica De Muro legge L'Iguana di Anna Maria Ortese. L'involontaria indiscrezione. Un pazzo. Ipotesi. Si era levato un vento che però poco dopo cadde completamente e anziché prendere il caffè sotto la quercia come erano soliti, gli avaredovi rinunziarono per concedersi un breve riposo nelle loro stanze. Mentre il marchese saliva con la tazzina che lui stesso era andato a prendere in cucina, l'iguana sembrava scomparsa, nella biblioteca al piano di sopra, seguito dall'ospite. Questa stanza, forse perché il cielo si era leggermente oscurato e la pace del pomeriggio, tacendo anche il mare, era assoluta, fece al conte una non lieta impressione. Alta, molto alta e stretta, con un soffitto a cupola, prendeva luce da una sola finestra, profondamente incassata nel muro, quasi una feritoia, cui si accedeva da 3 scalini di ardesia ed era sigillata più che chiusa da 3 vetrini istoriati. Davanti a tale finestra era posto di sghembo un cupo banco scolastico, il tavolo del letterato. La poca luce che passando tra un gruppo di re portoghesi rigidi e incantati arrivava colà aveva un che di freddo, di estraniato a questo mondo, per cui, invadendo quel puerile scrittoio, sparso di carte e cannucce impolverate, calamai rotti o asciutti e perciò senza tracce di un recente lavoro, sembrava mormorare che tra quei fogli non vi era nulla, assolutamente nulla che meritasse di essere letto, stampato, celebrato, e ciò metteva un senso di paura. Essa, questa luce, risalendo poi lungo la parete laterale, si arrampicava su un alto dipinto ovale di 2 metri almeno, dove una signora dell'apparente età di 30 anni, mite e bella, appena slavata, come il marchese di cui appariva chiarissimamente l'origine, reggeva sulle spalle una minuscola e oscura creatura che con una manina, il muso non si vedeva, andava aggiustandole sulla fronte un pallido ricciolo. La mitezza dei lineamenti della signora e insieme una loro spirituale grazia non nascondevano essere dietro quella fronte secoli di comando e di una risoluta volontà di interesse per il mondo e insieme di un invincibile disgusto di fronte ai suoi orrori. Tutti i sentimenti a cui si doveva poi, se l'insoddisfatto cuore si era rifugiato in un rapporto almeno apparentemente così saldo con la diletta bestiola. Si indovinava più che vedere, dietro un braccio della signora velato di tulle celeste, come il busto incavato, un cupo e verdastro paesaggio straniero, che causa il deterioramento della pittura non mostrava più, essendo ridotto a meno di una traccia, che il luccichio di un lago, vaga risposta a un'estrema schiarita del cielo, dopo un giorno che doveva essere stato di temporali e venti impetuosi. Era scritto, sotto il quadro, in lettere dorate, «Ho scelto il niente». Frase questa che tanto si poteva riferire alla predilezione per l'essere muto rispetto al parlante quanto a una più semplice inclinazione per il misticismo di cui la bella si era a un tratto incuriosita. Don Ilario, vedendo l'attenzione con cui il suo nuovo amico fissava il dipinto e apparendogli negli occhi un dolce e peraltro rapido sorriso, spiegò che quella signora da alcuni anni defunta era sua madre, una Hamilton, quando viveva col marchese a Tortuga nelle Antille, dove egli stesso era nato, venendone via sui 13 anni, dato che non ne erano trascorsi ancora 6 da quando aveva raggiunto in Ocagna i fratelli, e che quella scimmietta, È dunque una scimmietta, si disse il conte, persuaso fino a poco prima, non sapeva bene perché, che si trattasse di un uccello. Quella scimmietta di nome Perdita era molto cara ai suoi genitori e cresciuta con lui come una sorella. Essi avevano a quel tempo la casa piena di animali, anche pericolosi, di cui sopportavano con tenerezza e indulgenza infinita ogni danno. Egli in qualche modo aveva ereditato, se non la ricchezza dei suoi, per meglio dire di sua madre, in quanto i Segovia erano poveri, quello stesso culto della solitudine dove si vedono abbandonarsi a mille stravaganze quegli esseri privi di peccato chiamati animali. Non tutti, naturalmente, aggiunse, così innocenti e fidati, ma la gran parte. Ciò, non sembrando al conte, dopo l'esperienza di quelle ore, e imbarazzato da quanto gli appariva una menzogna e insieme ancor più avvertito dello squilibrio, per non dire il delirio, di quella mente, e reso pietoso da quel dibattersi del giovanetto in tanta oscurità o trionfo dell'ambiguo, il Lombardo lasciava scorrere lo sguardo su quelle pareti nude e sulle pile di libri che occupavano invece alcune monumentali sedie o giacevano a terra in un disordine che sembrava frutto di recenti preparativi a un ordine diverso, se non a una fuga, in questo caso del tutto impensabile, dalla misera Occagna. E la sua fronte era vagamente rannuvolata quando, cadendogli lo sguardo su un quadernuccio ingiallito, affiancato da un altro che sembrava più recente, lesse, e sul primo e sul secondo, scritto a mano con inchiostro verde, Portugal e poi Penosa. Da su Marchese Hilario Jiménez di Segovia, conte di Guzman. «Sono tuoi, permetti?» fece con un interesse improvviso e, avuto in segno di assenso un pallido sorriso, allungò la mano a prenderli. Sarà capitato anche al lettore talvolta un caso del genere. Ospite in casa di amici, aprire, dietro invito distratto del signore, la porta di una stanza e trovarsi davanti a una scena imbarazzante, per cui l'inoltrarsi come l'arretrare appaiono a un animo delicato ugualmente impossibili, e intanto un sudore freddo gli investe la fronte. Don Carlo Lodovico Aleardo di Grés non arrivò a questo facendo, tra l'altro, nello studio del marchese esposto al vedovo Nord abbastanza freddo, ma l'anima, per così dire, gli si chiuse completamente e fissava quella lettera, facente da dedica a Portugal, con una specie di dolore. D'altra parte, automaticamente e come in sogno, leggeva. Ed ecco cosa, nobile lettore. Occagna, AD 37 ottobre, secolo attuale. Mia cara, stelluccia dell'anima mia, rispettabile signora, Perdita. In ginocchio davanti a lei, oso dedicarle questo mio primo poema. Se tutte le costellazioni che per certo angeli, arcangeli e cherubini sostengono sulla balaustra dell'universo, acciò che una fievole luce giunga a schiarire il nostro mistero, dico se tutte le costellazioni più note ed altre che non brillano più, ma certo sono presenti in quanto il tempo, signora, non è che una distanza e il passato e il futuro regnano insieme all'appassionato e fulmineo attimo, se non pure, come lecito supporre, errano prigionieri nella carrozza del nulla. Ebbene, se tutte queste costellazioni e malinconie e code di gioia, insieme a quelle di altri universi, a tutti i frutti d'argento che si moltiplicano sui rami dell'albero cosmico, tutti i luoghi ed eventi che la meschinità del nostro ferito pensiero può appena arzigogolare, non andando in ogni caso al di là della più ridevole supposizione. Così dunque, se tutte queste costellazioni, queste vie lattee, queste nebulose e insomma questi contenuti della notte dispersa come l'oceano intorno alla nostra coscienza, se seguivano una ventina di periodi, ugualmente ridondanti nella forma fino al più estenuato barocchismo e del tutto incomprensibili, che il conte saltò se, riprendeva lo scrivente, arrivando così a una parvenza di conclusione, si mettessero in mente di ardere tutti insieme e così svanire nella infinità assoluta, non potrebbero uguagliare in minimo modo il fuoco che arde nell'animo mio da quando, diletta, posso considerarla mia sposa. Si è degnata di scendere fino a me, lei, creaturina bestiale, e perciò carica di tutte le raffinatezze e i significati del cielo. Mi sforzerò io dunque di salire fino a lei, degno figlio di Albione. L'amerò sempre con la più appassionata devozione, o signora. Discendente io stesso di Hidalghi, per quanto la nostra spada abbia perduto da tempo l'antica lucentezza, la deporrò ai suoi piedi. Il suo nome provocherà, cantato da me, la gelosia delle più famose beltà, e uscirò armato del suo nome in questa età destituita di ogni ideale a ravvivare quelli che, geni sfortunati, ebbero in sorte una così meschina progenie. Io farò questo, don Ilario Jimenez dei Marchesi di Segovia, conte di Guzman, o che tale, con le mie virtù, spero di venire. Ma intanto non mi disprezzi, non mi allontani da lei, o signora, se non vuole che subita morte segua a una peraltro giusta sentenza. Con successive parole che paragonavano la detta perdita a un gelsomino di Spagna oppure all'inquieto rosario del mare in una notte d'aprile, e il marchese a un verme, a una nullità, se non all'altra faccia, quella ancora allo stato gassoso dell'universo, finiva la incredibile dedica che portava, come dicemmo, la semplice data di secolo attuale. In fondo di pagina, come dimenticata e con un contrasto che in un primo momento non apparve al conte nella sua drammaticità, eravi una letterina della signora Hamilton che diceva, in tono tutto pedestre e accorato, vera letterina di madre a un figlio dimenticato, di non aver notizie sue e della cara perdita da novembre. Gli ricordava che il pasto della menina era di frutta e latte, debitamente distribuiti durante la giornata, ma un po' di nocciole bene arrostite non guastavano. Lo informava che la sentenza del tribunale di Caracas era stata contraria ai loro intendimenti e che perciò, malgrado l'interessamento dell'arcivescovo, non solo il possedimento di Tortuga ma Ocaña stessa, ultimo bene dei Segovia, doveva considerarsi perduta. E che dicesse a Ippolito di tener pronti gli atti di proprietà che erano nel terzo cassetto a sinistra dell'armadio, perché sarebbe venuto a vedere l'isola l'agente di una società immobiliare di Lisbona. Che suo padre, Don Gonzalo, aveva avuto un altro e più grave attacco di asma e smaniava di trasferirsi, dopo la conclusione di quella triste faccenda, a L'Avana. Che lì, anzi, speravano di riabbracciarlo presto insieme ai fratelli e che in ogni caso fidavano nel Signore, il quale, se momentaneamente aveva voluto innalzare i Hopkins schiacciando la loro dignità, non era detto, e in questo lei pensava come l'arcivescovo, che li avrebbe cancellati per sempre dalla sua memoria. Due versetti della Bibbia, pieni di straziata pazienza e rassegnata speranza: «Il Signore è la parte della mia eredità e del mio calice. Sei tu che mi restituisci la mia eredità», chiudevano l'umile lettera, e certi circoletti ingialliti stavano a testimoniare che la nobildonna, scrivendo ciò, aveva detto meno di quanto la sua malinconia reclamasse. Benché la immaginazione del conte non fosse di quelle che volano, tutt'altro, ed egli non riuscisse a vedere i fatti se non in ordine numerico, egli facesse difetto, come a molti lombardi, il dono della sintesi, pure in quel momento, per la prima volta nella sua vita, gli parve capire più cose che gli eventi gelosi non manifestassero. Collegando quella dedica e l'attigua lettera al silenzio e anzi la devastazione della casa, della piccola proprietà ed ora anche dello studio di Ilario, comprese o credé comprendere che tutto ciò che egli aveva pensato fin là del marchese e dei fratelli e in genere della loro crudeltà fosse da addebitarsi a una visione ancora dozzinale del proprio animo. E che, a parte i fratellastri che del resto egli non conosceva, se vi era al mondo un essere buono e debole, tenero e sfortunato in uguale, spaventosa misura, quello stava davanti a lui. E se era impazzito, dovevasi proprio a quella debolezza e bontà, immaginazione e assenza di praticità che lo disarmavano. Non era difficile arguire, pensò, mentre il marchese, occupato a raccogliere sotto il banco certi pennini che erano scivolati da una scatoletta, lasciava fiato alla sua desolazione, non era difficile arguire che scomparsi i suoi genitori improvvisamente, in qualche sciagura automobilistica o aerea o per un male scaturito dall'angoscia dall'Avana, semmai vi erano giunti, e da questo mondo in genere, la proprietà di Tortuga era stata incamerata da quei Hopkins e invenduta invece, o minacciata da ipoteche e altri guai, o salvata in extremis da quell'arcivescovo menzionato nella lettera, o cagna. Comunque costretti i Guzman, se volevano salvare quelle poche pietre, a non farsi più vedere in terraferma e a sperare che il cielo avesse fatto perdere le tracce di quel loro scoglio alla gente di Lisbona o toccato il cuore dei Hopkins al punto di dimenticarli. La follia per il marchese era maturata proprio in quel clima di paura e di isolamento, datando però, come appariva dalla lettera, fin da prima, da quando egli aveva scambiato la scimmietta che la signora madre gli aveva affidato per una qualche sublime damina. Probabilmente la scimmia era morta, o gli Avaredo l'avevano venduta sulla costa, e della sua fantastica infatuazione non era rimasto che un vago e distratto disgusto per le creature inferiori in genere, che sfortunatamente si era riversato sulla iguana. Probabilmente, come nella maggioranza di questi casi, i disturbi si erano presentati in concomitanza con l'età difficile, con lo sviluppo del fanciullo in uomo o in aspirante giovane uomo. Una nevrosi come un'altra, tutto sommato, che avrebbe richiesto per guarire un reale ingresso nel mondo, la vicinanza di un amico, di gentili donne e certe discussioni politiche, per non parlare di un po' di denaro. Queste cose, il conte ne aveva prove, operavano miracoli ed egli non disperava perciò di sottrarre Don Ilario a una completa devastazione. Per cui, atteggiando il bel volto serio e ridente insieme a una rispettosa attenzione, levò gli occhi da quelle pagine in volto al marchese, che non staccava i propri insanamente brillanti da lui, e disse che quella lettura gli sembrava molto interessante e avrebbe portato, se non gli dispiaceva, i due manoscritti in camera. Poi, mostrando di volersi interessare più vivamente a quella primitiva e casalinga edizione, si piegò accanto al banco e, trovata a terra una seconda copia di Portugao, priva di dedica, la scambiò rapidamente con la propria. Ilario sembrava così felice a un tratto, così dimentico delle sue passioni, così grato al conte della sua bontà, che il primo turbamento del daddo, seppur non completamente vinto, passò. E insieme i due si misero a parlare di Milano e della possibilità che operette simili, sempre che Don Ilario si fosse persuaso a dimenticare per un momento la sua posizione nell'universo, avevano di incontrare il favore del grosso pubblico, avido di novità, forse non troppo esigente e prodigo pertanto dei suoi nuovi denari. «Non so, lascio fare a te, vedi un po' tu, io comunque scrissi queste operette quando ero ancora undicenne e non le ho più ultimate», diceva Don Ilario vergognandosi un po' del suo nuovo stato d'animo di fronte alla prospettiva di un investimento, nonché sociale, economico, dei propri pensieri. E affidandosi alla sensibilità dell'amico, perché il suo consenso non desse luogo a un vero malinteso, dove la motivazione era, disse, soprattutto sentimentale. E pareva, egli stesso sorpreso della propria docilità e anche della dedica del 37 ottobre, secolo attuale, non provare improvvisamente, nonché imbarazzo, memoria.